Nina, Nina. 28 minuti. Nina, Nina, Nina, Nina. Buon pomeriggio a tutti da Barbara Palombelli. Come sa chi mi segue da sempre, il mercoledì è dedicato alle dipendenze, alla prevenzione delle dipendenze soprattutto giovanili. Parliamo di droga, parliamo di alcol, parliamo di tutto ciò che ci aiuta in qualche modo a definire, se vogliamo, un'identità che evidentemente è in crisi. Abbiamo fatto parlare tantissime persone in queste settimane, continueremo, sono sempre tanti gli ospiti che accettano questa sfida. Ripeto, non è una sfida, non chiediamo soldi, non chiediamo leggi, cerchiamo di capire come mai una generazione è così fortemente attratta dalle dipendenze, dal cosiddetto inquinamento chimico. Lo so che i chimici si arrabbiano quando io dico così, e insomma io vi offro, grazie a questo microfono, grazie a Radio 2 che mi segue in questa campagna e tante volte anche mi chiamano anche in televisione a parlarne, proprio perché offriamo soltanto l'idea di qualche riflessione utile per capire. Allora, oggi l'ospite è Massimo Fagioli, psichiatra, e venerdì 9 aprile esce una nuova edizione di un libro che ha scritto, pensate, 40 anni fa, è attualissimo, naturalmente corredato da un'appendice inedita. Si chiama Istinto di morte e conoscenza, l'editore è l'Asino d'Oro. Questo libro verrà presentato venerdì 16 aprile alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Via Appia a Roma. È una nuova libreria molto grande in una zona molto molto popolata. E allora, dopo il primo brano musicale, l'intervista con il professor Massimo Fagioli, sentiremo come ci potrà aiutare a capire perché tante generazioni si avvicinano alla droga e all'alcol e alle pasticche per forse, chissà, trovare un aiuto che questa società non riesce a offrire loro. Times today, we l'una 4 minuti 28 secondi. È sempre difficile introdurre un personaggio importante come Massimo Fagioli, neuropsichiatra, laureato in medicina, poi psicoanalista e poi antipsicoanalista. Un tempo si diceva che l'analisi di gruppo che lui portò nei primi seminari, io ricordo era all'università, i primissimi anni di università, scandalizzò l'establishment della psicanalisi italiana, fino, se non ricordo male, a un'espulsione, professor Fagioli, o una separazione? Sì, l'espulsione, ma non tanto per i gruppi che si erano formati quanto per la teoria. Nei tempi, quando ci fu il processo del gruppo, questo che poi si è chiamato analisi collettiva, non c'era, perché era il gennaio del 75, cominciò a settembre del 75. Lei era contro l'idea che l'analisi fosse qualcosa per signore annoiate, snob, che potevano pagare, all'epoca si parlava di milioni e dei milioni, ricordo di averle sentito dire questo all'Università di Roma quando ero... Esattissimo, e lo confermo, perché non c'era nessuna proposizione di cura, non c'era nessuna proposizione, perché non c'era nessuna proposizione di malattia. Perché a monte c'era questa terribile, terrificante idea che l'uomo è per sua natura pazzo, animale, era per sua natura cattivo, eccetera, come erede del Logos occidentale e della Bibbia, per cui saremmo tutti figli di Caino. Quindi si trattava soltanto di fermare e sviluppare la ragione per controllare questa bestia che stava in tutto, eccetera. Io questo l'ho rifiutato completamente. Se c'è una bestia in quello che si dice inconscio, cioè tutto il mondo del pensiero, che poi è un terzo di vita, un terzo di giornata di sonno, è perché c'è la malattia. E allora si tratta di affrontare la malattia. Quindi se non fossimo disturbati in qualche modo, saremmo invece delle persone felici e normali. Non felici e non normali, quello perché dopo è un fatto molto di ricerca personale. Qualcuno preferisce realizzare la propria identità piuttosto che la felicità. E la felicità è un concetto molto vago e poi un fatto molto molto personale. Uno può essere... Sono 5 o 6 minuti quelli che poi alla fine della vita ricordiamo come felici, forse. Cioè, qualcuno l'ha detto, non l'ho detto. L'ha detto Pasolini nell'Accattone. Sì. E lui stava bene quando era in punto di morte, adesso sto bene. E allora abbiamo iniziato raccontando l'ultimo libro, la ripubblicazione, la nuova edizione del libro di Massimo Fagioli, Istinto di morte e conoscenza, pubblicato dall'Asino d'Oro, uscirà venerdì prossimo e il successivo venerdì 16 aprile dalle 18 a Roma presso la libreria Feltrinelli di Via Appia verrà presentato. Professore, io sono molto contenta che lei sia qui proprio per aiutarci a capire come mai, abbiamo parlato degli anni 70, abbiamo parlato dell'analisi di gruppo, probabilmente lì le persone che con lei sperimentavano nei seminari e nell'analisi collettiva un modo diverso di approcciare alla mente e alle sue, diciamo, potenzialità, c'era meno questo sistema della dipendenza, la droga, la chimica, lo spaccio, l'appuntamento quotidiano con qualcuno che ti dà qualcosa che ti aiuta a dormire, a vivere, a fare l'amore probabilmente, oppure ti danneggia, tutte queste attività ma di cui non puoi fare a meno. Qual è la sua lettura in Italia oggi di questo fenomeno? Stavo cercando prima in attesa se questa cosa quando cominciava, e andavo agli anni 60. Adesso mi ha detto che ancora nel 75 non c'era veramente, io adesso lì non mi ricordo perché ma nella massa preso. Per come posso ricordare dentro l'università no, ancora no, c'era in qualche eroinomane ma molto laterale, molto no, nella massa, io parlo del fenomeno che di massa veniva era questo, e quindi lì bisogna vedere, perché credo che stavo pensando che bisogna porre l'attenzione sul 68 un po' per fatti personali, nel senso che quelle persone che venivano nei gruppi a centinaia, eccetera, per cercare una strada di, non di felicità, ma di sanità, di uscire, erano eredi del 68, persone sfasciate dal 68, persone che nell'euforia proprio del 68, al massimo del 69, per dire 70, e poi si trovavano completamente persi, addirittura in malattia, in dissociazione mentale, eccetera. Questa euforia della felicità. Bastava scoprire Marcuse, bastava scoprire Liberiamo il desiderio, Il desiderio non c'era, quindi che cosa si liberava? E si sono trovati a non liberare assolutamente niente e hanno scoperto questa cosa che più li angosciava, che era... Adesso lo dico, quella volta in maniera manifesta era la frigidità. Questa libertà sessuale del 68 ha portato a verificare che in verità c'era una frigidità e un'impotenza di sessualità, non si faceva assolutamente niente. Questo già un po' l'aveva annunciato la pillola. Per cui ai tempi miei, purtroppo, era che uno diceva, ma perché c'è la paura delle gravidanze, perché c'è la paura delle malattie, perché, e quindi la sessualità non poteva tanto funzionare. Poi sono venuti bellamente gli antibiotici, è venuta bellamente la pillola, e la frigidità è rimasta, e non ha fatto assolutamente niente, quindi bisognava cercare una formazione qualcosa di personalità, più profondo. Qualcosa di mentale, qualcosa, la sessualità umana è una questione mentale. Prescindere dai difetti fisici, per cui ci pensa il chirurgo, ci pensa quello che fa gli ormoni, che sistema la fisiologia del corpo, ma fatto quello non basta affatto. E lì si è sviluppato dopo il 68 questa strana droga mentale, per cui addirittura si arrivava a dire che correva l'LSD per essere creativi. E difatti cantanti, non cantanti, eccetera, non è vero affatto, la creatività c'è se uno ce l'ha, come Mozart che non adoperava l'LSD, chiaro? Quello serve perché dovevano liberare questo inconscio. Beh, questo parliamo anche di nomi e cognomi, perché all'epoca dai Beatles ai Rolling Stones, ai grandi musicisti, Jimi Hendrix, c'era proprio, era collegato assolutamente a questo sballo, no? Sì. La possibilità di esibirsi anche lì. Poi tutti hanno fatto però, una marcia indietro. Forse i Beatles no, perché avevano una creatività loro. Sì, però insomma, Lucy in the Sky with Diamonds, proprio poco tempo fa hanno riportato alla luce un'intervista, proprio quando si parlava di droga appunto recentemente, un'intervista di Paul McCartney dove appunto elogiava l'uso degli allucinogeni proprio per creare. Esatto. Questo un'intervista rimasto, di cui poi si pentì moltissimo. Per cui poi c'è venuta fuori questa ideologia che si è diffusa per quel ragazzino che esce 12 anni, 13 anni, che va incontro a questa... uno, la pubertà, in cui c'è tutta ovviamente una trasformazione dell'identità, si passa dall'infanzia in vari anni, molti anni, pochi anni, a un'età adulta, e con lì la separazione dalla famiglia, questo è il punto. Però con la separazione dalla famiglia non si trova una società che ti accolga, non si trovano le altre famiglie, forse di una volta, chi lo sa. Sì, gli adulti sono persone strane, sono per il 12, 15, 16 enne che so io, sono persone sconosciute, anzi addirittura pericolose. E effettivamente non ha tutti i torti, perché l'egoismo che c'è nell'adulto che deve far carriera, che ha trovato la strada di realizzare la propria identità nella società come carriera, come fare soldi, come... E anche, non voglio accusare gli studiosi, se non magari ci andrei di mezzo, ma quelli che poi si dedicano a realizzare la propria identità soltanto non perché per una esigenza appunto di bisogno artistico, per cui devono scrivere musica, devono scrivere romanzi, devono, no, ma perché hanno anche loro delle angosce che cercano di parare, di parare, di fermare con la carriera, e quindi diventano brillantissimi. Quindi non sono cresciuti per fare i genitori, non i quarantenni e cinquantenni di oggi? Ecco, e qui c'è tutta una catena, cioè non sono niente a fare storie d'amore. Per cui nella storia d'amore verrebbero fuori dei figli che poi verrebbero curati, amati, eccetera, per quei 10 anni necessari. È solo... Invece no, la carriera porta via tutto, porta via tutto, e conseguentemente il figlio lo fanno, però poi non lo seguono per niente. Diciamo anche che noi abbiamo scoperto in questo viaggio nella società italiana che poi questi ragazzi non trovano più la famiglia parrocchia, la famiglia partito, la famiglia scout, la famiglia scuola, tutti questi altri surrogati che poi hanno sostenuto le famiglie di una volta, no? Non c'è un abbraccio cordiale, affettuoso da parte della società. perché la società chiede risultati se fai sport, risultati se vai a scuola, insomma è una società molto competitiva, non è affatto accogliente, no? Sì, perché l'adulto non sa che fare di fronte alla pubblica, perché a sua volta... Quando ha attraversato la pubertà e questa trasformazione del corpo e della mente, è andato nei pasticci, per cui è entrato nell'angoscia, nella dissociazione, vado alla malattia mentale, o il sostenersi con la droga del sabato e fare carriera, portarsi avanti in quel modo, oppure dall'altra parte pare che ci sia il fenomeno che a 35 anni stanno ancora in famiglia, hanno paura di questa separarsi dalla famiglia per realizzare se stessi. Io mi ricordo che ai tempi del 68 a 17 anni si andava via di casa, anche perché i genitori ti dicevano sei un uomo, sei una donna, te lo dicevano prestissimo. Sì, uno ci credeva, esatto. Adesso a 30 anni, amore, adesso mio, mettiti la maglia di lana. A 37 anni stanno ancora con la mamma, ecco, i cosiddetti bamboccioni, come li chiamò, esatto, il ministro Padoa-Schioppa, battuta che forse non rifarebbe. E come si riescono a far in qualche modo crescere se la società in realtà non offre nessun tipo di accoglienza? Ma quelli trovano una calma in una normalità mediocre di un giusto lavoro, trovano una normalità mediocre di una giusta anche famiglia, si sposano eccetera e fanno così la vita del dei buoni tempi di Chekhov eccetera eccetera. Gli altri, quelli che invece, restano a casa, quelli rimangono le persone che poi a 18 anni sono nel disastro eccetera eccetera, fino ad arrivare alla tossicomania vera e propria o a una nevrosi o una psicosi più o meno mascherata, per cui poi si sviluppa tutta questa ricerca su quello che è la realtà psichica eccetera. C'è stata questa novità che non è degli primi del Novecento, appunto non è di Freud, perché Freud non aveva scoperto, Freud è la causa di quello che ha detto Marcuse: liberiamo gli istinti. Ma che liberi gli istinti se prima non sai che cosa sono e che cos'è il desiderio, eccetera, eccetera? No, no, è come se l'uomo fosse fatto e fosse soltanto una questione di repressione. Quindi c'è una, al posto della repressione sarebbe subentrata, se non leggo male le sue parole, una colossale frustrazione, un senso di inadeguatezza collettivo, sì, sì, rispetto a dei parametri e a delle, diciamo, eventuali competizioni che nessuno si sentiva di combattere. In qualche modo la società, mettiamolo tra virgolette, repressiva, rendeva possibile l'essere più o meno graduali, sì, delle passioni, sì, sì, sì, cosa che adesso è assolutamente impossibile. Esatto. Le passioni ce lo racconta il bancone della farmacia, le dobbiamo vivere per forza, e se non ce la facciamo c'è una pasticca che ci aiuta. Every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a leather rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history. Everything is a-okay. We are living like we've always known a different way. We are taking all the different roads before I go. It'll bring you back around to the one you know. 1, 21 minuti in questo momento. L'ospite di oggi è lo psichiatra, il professor Massimo Fagioli. Uscirà venerdì prossimo, ripubblicato, un libro fondamentale che si chiama Istinto di morte e conoscenza, pubblicato dall'Asino d'Oro, e venerdì 16 aprile alle 18 verrà presentato alla libreria Feltrinelli di via Appia a Roma. Il professor Fagioli ci stava dicendo che poi l'adolescente, il giovane che non trova dei genitori adeguati, che perché a loro volta non sono cresciuti, quindi non sono in grado di accogliere, di dare, ma sono tutti presi magari dalla carriera, dal lavoro, dalla loro realizzazione, che serve, diciamo, a coprire delle angosce in qualche modo non risolte. E questo adolescente si affaccia al mondo e per entrare nel gruppo si adegua ai rituali di gruppo, come in tutte le civiltà del mondo. Sì. Per stare nel gruppo proprio in un momento in cui c'è questa trasformazione della pubertà. Questa è la cosa grossa e importante, che già è turbato ovviamente, perché lì c'è un cambiamento mentale, fisico. Ci sono dei ragazzi che nel giro di 2 anni crescono di 20 centimetri, quindi si cambia tutta l'identità, l'immagine, anche la voce, del corpo, tutto. E lì i genitori, di fronte a una cosa di questo genere, non sanno rispondere, e allora trovano ovviamente fuori, combinano questa realizzazione personale con la separazione dalla famiglia e la realizzazione di una nuova identità nel gruppo fuori. E nel gruppo fuori c'è questa cosa. C'è la prova d'ammissione. La prova d'ammissione è una quantità di birre sconsiderate il sabato, la una discoteca spaccata a metà magari per aumentare, come ci ha detto Cancrini qui. Oh. C'è qualcosa che aggiunge all'identità in crisi una potenza, un potere. Una volta c'erano le armature, gli scudi, le frecce, adesso abbiamo questa. Perché si libera, forse proprio è che la grande malattia è quando l'affettività di sentirsi quello fa venire varie depressioni, eccetera. È nel libro, in questo libro che vi consiglio, Istinto di morte e conoscenza, il professor Fagioli parte dall'abbandono, l'abbandono primario, quello che vediamo nei neonati, quello che vediamo negli animali, è la ferita più terribile che attraversa la vita, la condizione umana, ferita rispetto alla quale il piccolo neonato, se ci fate caso, il piccolo cucciolo cerca di nascondersi lui, per cercare lui di sottrarsi e non soffrire rispetto a quello che non vede più, che non ama più, che non può più toccare. Non è mi tutto diversa la lettura di questo abbandono. Libro che ho fatto forse 30 anni fa, non 40 ma 30, e quando poi uno ha dei figli lo legge in un altro modo. È un libro che io consiglio alle mamme, perché è un libro che racconta quanto siamo fragili e quanto sia poi tutto da lì parte. La ripetizione 100 volte di questo abbandono è la vera ferita che noi dobbiamo curare per vivere, professore. Sì, bisogna lavorare, discutere, parlare sempre, vedere che cosa ci succede dentro questo, senza essere presi dall'angoscia e andare, dice, adesso mi prendo un ecstasy e sto bene. E allora riesco a cancellare tutto, eccetera. Quindi dobbiamo lavorare anche sui distacchi dalle persone. Sui distacchi, riuscire a trovare sempre dei rapporti, storie d'amore in cui si parla, si dice, si parla di sé. Si cerca di capire qualche cosa, il perché di questo e il perché di quest'altro. Quindi anche con i figli, lei ha chiamato spesso storia d'amore quella tra figli e genitori, perché lo è, lo deve essere. Ah, lo dovrebbe essere, sì. Purtroppo tante volte no, è un fatto biologico e non è una storia d'amore, è chiaro. Nell'amore c'è anche l'odio, però. Che si fa quando un figlio sbatte la porta? Sappiamo, lo vediamo alterato perché appunto ha preso della chimica sbagliata. Quando già il fatto è accaduto, lì diventa sempre più difficile. Lì occorre l'esperto, occorre lo psichiatra, occorre un psicologo quando già comincia. E questo si sa. Il tossicomane, quando già c'è andato, bisogna che vada a curarsi e lì c'è la cura. No, io parlo prima che accada questo. Parlare di cucire, discutere, cercare di lenire sempre questa ferita dell'abbandono. Non considerare che quello che succede dentro di noi sia inconoscibile, che no, per cui ci viene l'angoscia che mi sta succedendo, e fino alla paura di impazzire, e allora si va all'estasi, si va alla coca, si va all'eroina, eccetera, perché poi in fondo eroina, spinello, eccetera, sono tutti anestetici che calmano. Io ho sempre pensato, abbiamo veramente ancora mezzo minuto, però ho sempre pensato che la sua intuizione dell'analisi collettiva fosse poi dimostrata dalle grandi comunità che appunto hanno in cura i tossici, hanno in cura le persone che hanno delle dipendenze. Veramente io preciserei le parole, non è stato un merito mio, un'intuizione, magari fosse stato, è stata una richiesta degli altri. Io ero andato all'università a fare delle regolari, normalissime supervisioni e sono venuti a centinaia a chiedermi l'interpretazione dei sogni, a chiedermi un discorso in cui, a chiedermi delle risposte rispetto al loro disagio, che era il risultato di un 68 caotico, di un 68 euforico, che aveva detto sì, liberiamoci degli istinti e siamo felici. Ma, e poi siamo diventati schiavi di questo. Ma e poi la liberazione è diventata coca, è diventata. E allora io continuerei per ora a parlare col professor Fagioli, purtroppo i minuti sono volati, e allora ricordo gli appuntamenti: venerdì 16 aprile alle 18 per chi è di Roma, presso la libreria Feltrinelli di via Appia verrà presentato il libro, potete incontrare il professor Fagioli, il titolo del libro è Istinto di morte e conoscenza, pubblicato dall'Asino d'Oro, uscirà dopodomani, venerdì prossimo. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie e a voi. Se vorrà potrà tornare quando crede e quando vuole. Noi continuiamo con i nostri mercoledì, se volete scriverci o raggiungerci o riascoltare questa o altre trasmissioni potete farlo 28minuti.rai.it. Ringrazio Simone D'Arrigo per la collaborazione tecnica, Cecilia Di Gennaro che è la curatrice del programma, Viviana Pregadio che lavora in redazione e Giancarlo Simoncelli che è il nostro regista. Fra pochissimo naturalmente il giornale radio e poi a seguire Un giorno da pecora. A domani.